e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Caro Babbo Natale, caro ciliegione svolazzante, per niente abominevole panzone delle nevi, caro Babushka per i russi, caro Bob per gli americani, per gli inglesi Simply Red, per i francesi Homme Michelin Rouge. Se mi vedi da Google Art, io sono la piccola Espinosa e questo signore che dall'alto somiglia a un tubo di cartone quando è finito lo Scottex è Fabio. L'ha fatta Luciana Littizzetto e l'ha letta in diretta. Che tempo che fa? Voi avete scritto la vostra letterina? Che cosa ci avete scritto? Volete leggerla in diretta a cuore denari oppure leggere quella che i vostri bambini hanno scritto a Babbo Natale? Magari sicuramente ne avrete tenuto una copia. Chiamateci, oggi alla vigilia di Natale parliamo di dono e di doni. Lo faremo con tanti ospiti perché si possono donare tante cose: tempo, ascolto, cure, parti di sé, idee, energia, positività. E noi siamo tutti donatori o potenziali donatori, anche se non ce ne rendiamo conto, anche se non vogliamo dare nulla, pensiamo di non avere nulla da dare, perché il dono è qualcosa che ci appartiene. L'uomo come animale sociale è proprio fatto per donare e il dono crea relazioni e le relazioni muovono il mondo da sempre, verrebbe da dire dal dono di una mela. Allora, che cos'è per voi allora il dono? Quali caratteristiche deve avere per essere definito tale? Questo è un tema che ci suggerisce una serie di riflessioni su cui, pensate, da secoli si misurano filosofi, antropologi, economisti, scrittori, perché il dono può essere letto da tante prospettive differenti. Noi oggi proveremo ad analizzarne alcune e a proporvi alcune forme di dono, partendo proprio dai racconti dei protagonisti. In studio con noi Maria Giovanna Gatti, medico e scrittore, bentornate, ciao! Ciao, grazie per il dono dell'invito. E infatti anche tu ci hai fatto un bel regalo a essere qui il giorno della vigilia. Il dono è anche presenza, non a caso si dice le ho portato un presente. Sì, il dono migliore secondo me è la presenza. Il dono che amo fare ai miei amici è prendere il treno, la macchina, l'autobus, l'aereo e andare a trovarli. Il dono gratuito di se stessi, e sono molto sensibile quando qualcuno viene a trovarmi. Allora veniteci a trovare anche voi all'800 00240024, parliamo di doni, di doni, di quelle che vorreste ricevere, di un dono che invece non avete mai ricevuto, del dono che avreste voluto donare ma non avete per una serie di ragioni anche economiche o di tempo, non avete potuto fare. Vi aspettiamo e vi aspettiamo anche al 349-238-6666 o mandateci i vostri messaggi su WhatsApp. Giovanna Natale, siamo un po' tutti presi da quella frenesia di essere o di dimostrarci più buono, no? Donando, per l'appunto, facciamo la telefonata, sì, al collega che è andato in pensione, portiamo il pensierino alla zia che durante l'anno, sì, evitiamo con mille acrobazie, facciamo gli auguri, no, al vicino di casa con cui solitamente nelle riunioni di condominio ci scagniamo. È la magia del Natale, i neuroni specchio. Che cosa dicono le neuroscienze? Le neuroscienze dicono che noi siamo tendenzialmente buoni. Quando doniamo qualcosa, soprattutto a persone che non conosciamo, questo è un po' misterioso ma vero, si accendono parti del nostro cervello che donano piacere, quindi noi proviamo piacere nel dare. In particolare i bambini sono stati studiati molto attentamente, posti di fronte a due oggetti con la possibilità di tenerseli o di donare, di solito donano e provano piacere, che si può misurare con la risonanza magnetica funzionale del cervello. Si accendono delle parti del cervello. Si accendono, sì, delle parti del cervello che sono le parti del piacere. Pochissimi bambini invece tengono per sé. Lo stesso fa l'adulto, anche se l'adulto poi crescendo struttura alcuni comportamenti che non sono istintivi ma sono appresi, quindi diventa un po' più egoista. E quindi, Giovanna, chi dona ci guadagna, sì, sicuramente in endorfine. Sì, sono... sì, produce ormoni, le endorfine sono, chiamiamoli, neurotrasmettitori, facciamo finta che siano ormoni che donano piacere, tirano sull'umore, sono antidepressivi naturali. Chi dona sta meglio. E però pensiamo che, come diceva Rita Levi-Montalcini, noi siamo un sistema. Quando produciamo endorfine, tutto il nostro sistema ormonale sta meglio, quindi anche gli organi stanno meglio. Donare, sentirsi meglio, significa trovare anche uno stato di benessere fisico e trovare un miglioramento della propria salute. Certo che è bello donare, ma anche ricevere dei doni, diciamo la verità. Sì. Tutti noi ce ne aspettiamo qualcuno. Questo è un argomento un po' spinoso, perché veramente noi dovremmo donare donando. E poi con la certezza, secondo me, secondo molte filosofie orientali, di ricevere proprio perché abbiamo donato. Non parlo, il dono per me è essere qui e avere tante persone che ci ascoltano. Comunque, se volete, oggi, visto che domani è Natale, ho portato qualche libro, se le persone che telefonano hanno voglia poi di chiedere anche un tot di libri, insomma, hai portato libri che tu hai scritto con Umberto Veronesi, anche da solo, anche il romanzo, insomma. Brava. È una cosa in più che oggi abbiamo. Libri per che alcuni sono proprio dedicati alle donne, sì, come L'età della donna. Sì. Ho portato anche Il mio mondo è donna, che ho scritto con Veronesi. Oltre il dolore, ho portato il mio romanzo Il male dentro. Allora, Giovanna, 800 24 00 24, ricordiamo, i messaggi ne stanno già arrivando al 349 238 6666, facciamo questa vigilia di Natale insieme parlando proprio di dono. L'Istat, sono oltre 4 milioni gli italiani che hanno la fortuna di festeggiare Natale, che è la festa del dono e della vita, tutto l'anno. Sono i volontari, qualcuno li ha definiti gli acrobati della generosità. Sono persone assolutamente normali, padri di famiglia, mamme, pensionate, ragazzi e ragazze, che dedicano una parte del loro tempo a fare qualcosa di utile per gli altri, a regalare qualcosa di loro, una parte di sé. Il prossimo può avere il volto di un anziano, di un malato, di un disabile, di un senza tetto, di un bambino. I volontari spingono carrozzine, distribuiscono pasti, regalano ascolti, gesti, sorrisi e sono, come ci raccontano, ripagati spesso da uno sguardo, da un sorriso, da una parola, a volte anche da un silenzio. Ma chi sono in realtà i volontari? Che cosa hanno di diverso? Perché soprattutto cosa li spinge a ritagliare spazi del loro quotidiano da condividere con persone con cui non hanno legami di amicizia, parentela? Se siete volontari, oggi siete invitati a darci una risposta raccontandoci la vostra esperienza all'800 24 00 24, ma chiamateci anche per raccontarci se l'incontro con un volontario ha aggiunto qualcosa alla vostra vita. Magari qualcuno è venuto a trovarvi quando eravate malati, oppure vi ha ascoltato quando nessuno sembrava avere il tempo di farlo, o vivete proprio grazie al dono di qualcuno. Sto pensando ad esempio a chi ha bisogno di sangue e ha potuto fare un intervento proprio grazie alla disponibilità di sangue. 800 24 00 24, in questa puntata in cui cerchiamo di guardare il dono da tante sfaccettature, abbiamo in linea con noi Aldo Zino Caligaris, presidente FIDAS. Buongiorno. Buongiorno. Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue, con cui ci diamo del tu, perché tra volontari ci si dà del tu, Aldo. Certamente, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Grazie dell'invito e auguri. Tanti auguri. Aldo, in questo giorno di vigilia, in una puntata tutta dedicata al dono nelle sue varie infinite declinazioni, vogliamo ricordare i donatori di sangue, che donano qualcosa di molto speciale, vitale, unico, che non può essere fabbricato in laboratorio. Questo è verissimo, ma la cosa bella è che il dono del sangue ha una caratteristica di essere dato gratuitamente e responsabilmente verso qualcuno che non si conosce, verso qualcuno che però ha bisogno, ma ha bisogno veramente del sangue per poter appunto effettuare una terapia, per fare un intervento, a volte per affrontare un'urgenza, un'emergenza inaspettata e poter continuare a vivere e godere di una buona salute. Quindi il dono del sangue è un dono bellissimo, perché si fa con grande disponibilità, a volte con semplicità, con anonimato, ma va a qualcuno che non si conosce, quindi è un dono totalmente gratuito e anonimo. Aldo, ma secondo te che cosa fa scattare, lo chiedo anche a Giovanna Gatti, che cosa fa scattare in una persona il desiderio di donare e il piacere di continuare a farlo, perché anche questo un po' fa la differenza, Aldo? Allora, il motivo credo che sia la sensibilizzazione, cioè il conoscere realmente questa esigenza, questa necessità, Tu, Nicoletta, hai detto una cosa giustissima: il sangue non si produce in laboratorio, non si fabbrica a livello industriale. L'unico modo di avere sangue e terapie con emocomponenti o medicinali plasma derivati è attraverso il dono volontario e non remunerato da parte di persone che in buona salute, in condizioni diciamo ottimali, possono dare qualcosa di sé per garantire appunto la vita in altre persone. Questa è la principale, secondo me, motivazione, cioè conoscere che è un'esigenza che deve essere colmata con questo gesto. E questo gesto ha un duplice valore, perché uno è la finalità, l'altra è fondamentale per il donatore, perché il donatore compie un gesto che lo rende partecipe di una realtà civica, gli dà un senso, lo rende attivo, un cittadino attivo nella società per fare qualcosa per gli altri, quando spesso ci domandiamo cosa posso fare per gli altri. Ecco, se godiamo di buona salute, doniamo il sangue. Ci scrive su WhatsApp Alessandro da Pistoia: da quando sono diventato donatore di sangue, oltre 10 anni fa, credo di aver ricevuto più di quello che ho dato. Giovanna. Sì, fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, un concetto laico prima che religioso. Certo che si riceve tantissimo, si dona, non si sa chi si dona, e proprio per questo il dono ci porta tanta energia, tanta gioia e anche tante belle cose concrete. Il domandone, me lo sono inventato adesso, potrebbe essere: quando avete ricevuto un enorme dono donando? 800 24 00 24, questo è uno stimolo molto molto bello da condividere con voi. Aldo, c'è sempre bisogno, no, di investire nella cultura del dono, e quindi approfittiamo di questo giorno di vigilia in cui siamo tutti più predisposti a fare e a sentirci buoni per lanciare un appello alle persone che ci stanno ascoltando, che magari per una serie di timori, per mancanza di tempo, perché si tende a dire beh ci penseranno gli altri, magari non ha ancora deciso di fare questo passo, oppure l'ha fatto e si è perso un po' per strada. Sì, difatti io direi facciamo il dono, non mettiamo scuse. È facile trovare delle scuse che ci spingano diciamo a lasciare agli altri appunto il compito di fare qualcosa di importante. Troviamo il coraggio, la voglia, l'energia di metterci in gioco. Forse questo può essere il più bel dono per gli altri, il più bel dono per fare quelle cose magari che ci sono difficili da fare, che vorremmo rimandare, trovare una persona, andare a salutare una persona magari che non ci sta simpatica, o fare ecco qualche cosa che ci costa un pochino più di energia, un po' più di fatica, e quindi perché no, superare a volte ecco un po' di paura irrazionale che può essere quella di andare a donare il sangue, facendo invece un gesto che semplicemente sappiamo che è seguito con grande attenzione e professionalità dalla rete trasfusionale nazionale, e accorparci a quel milione, diciamo unirci a quel 1.700.000 donatori che nell'anno garantiscono le oltre 8.000 trasfusioni al giorno che ricevono altri cittadini bisognosi. E quindi nel dono credo che ci sia veramente il concetto del benessere, innanzitutto per la buona salute, ma poi di quel ritorno fantastico, straordinario, che è l'essere consapevoli proprio di aver donato qualcosa di sé gratuitamente agli altri. Credo che in una giornata come questa sia importante ricordare questo aspetto e coinvolgere soprattutto le persone giovani, dare a loro uno stimolo per sentirsi parte integrante della società in cui vivono, coinvolgere di più le donne, che oggi sono soltanto un terzo dei donatori nel nostro paese, e perché no, anche i cittadini di altre culture che vengono accolti nella nostra società e che hanno, diciamo, tra virgolette, il dovere e diritto di partecipare a questo gesto gratuito di volontariato. Adesso ci fermiamo, Aldo, perché abbiamo le informazioni sul traffico. Ti chiedo di restare con noi per ricordare i requisiti del donatore. Abbiamo già in linea, e io vi ringrazio, Giulio da Brescia, Giovanni da Milano, perché queste sono giornate un po' particolari. Si ascolta la radio, ma si è in mille faccende affaccendati, invece mi state regalando veramente il vostro tempo, anche la vostra presenza qui attraverso il nostro numero verde. Vi aspetto, adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi subito dopo insieme. cuore e denari. So this is Christmas. And what have you done? Eccoci di nuovo insieme per parlare di dono e nelle sue infinite sfumature varianti. Voglio leggervi un messaggio che ci ha mandato Francesca da Verona, perché vi abbiamo chiesto qual è il dono che vorreste ricevere, ma anche Giovanna Gatti ha aggiunto qual è il dono che donando vi ha reso persone migliori, no? Vi ha fatto un grande regalo. Francesca ci scrive: il mio dono è quello che vorrei davvero in questo momento, il vero amore della vita, nulla di materiale. Buon Natale a tutti, sono una volontaria di un'associazione che si occupa di organizzare momenti ricreativi per i giovani disabili mentali. Grazie, auguri a Francesca da Verona, ma in linea abbiamo ancora Aldo Zino Caligaris. Aldo, ci ricordi i requisiti del donatore? Allora, il donatore di sangue è una persona che è in buona salute, è una persona che ha compiuto 18 anni, che prende coscienza di questo gesto, si avvicina a un servizio trasfusionale, un'unità di raccolta gestita dalle associazioni, e si sottopone praticamente a un'accurata selezione per verificare appunto l'assenza di patologie, di malattie diciamo croniche o di altre condizioni che ovviamente temporaneamente possono non rendere idoneo il donatore alla donazione, e anche a un'importante verifica che i suoi comportamenti, i suoi stili di vita diciamo siano idonei per la donazione, il che vuol dire avere abitudini alimentari sane, comportamenti sessuali corretti, non essersi esposti praticamente al rischio di aver contratto delle malattie trasmissibili che poi vengono sistematicamente verificate con analisi molto accurate sull'emocomponente, sul sangue raccolto, sul sangue donato ad ogni donazione. Gianni da Milano ci scrive: sono donatore di sangue, ho fatto quasi 100 donazioni, non so mai dove vada a finire il mio sangue, non mi importa, ma è vero, l'idea che salva la vita di un bambino o una madre ti fa sentire bene. C'è invece Sergio che ci scrive da Verona, Aldo, che ci dice: ok, va bene, tutto bello, però un donatore alla fine della vita lavorativa, i giorni di donazione verranno conteggiati ai fini pensionistici? Sì o no? Ecco, sì. Allora lui dice: andiamo un po' al sodo, siamo tutti bravi, eccetera, ma Allora, sicuramente sì, il lavoratore dipendente ha al momento questa possibilità, proprio per una questione organizzativa, gestionale, del fatto che purtroppo gli orari per effettuare le donazioni sono molto legate ovviamente anche alla gestione poi del sangue raccolto, alla sua lavorazione, alla sua scomposizione, e si dona soprattutto la mattina. Per rendere compatibile questo con il lavoratore dipendente c'è la giornata di disponibilità, quindi a carico del servizio previdenziale, che non dà nulla al donatore ma consente questa donazione nel giorno di lavoro, infatti, il quale poi verrà calcolato ai fini pensionistici senza alcun tipo di decurtazione. Insomma, Deborah sarebbe fiera di me per questo aggancio. Davvero, questa sì. Cosa è la parte di denari. Cuore, vero? Denari. Cuore denari. Allora, Aldo, non riusciamo a lasciarti, ma insomma le domande che arrivano per te sono davvero tante. Alessandro ci scrive: sono portatore sano di microcitemia, so che non posso donare, ho alternative? Ci spieghi che cos'ha e qual è il problema di Alessandro e se ci sono delle alternative per lui che vuole diventare donatore? Allora, il microcitemico intanto può donare, e questa è la cosa importante, può donare con dei valori ovviamente di emoglobina che siano compatibili con la donazione, quindi intanto il microcitemico è giusto che vada a proporsi come donatore. Sì. Ovviamente potrà donare un numero di donazioni inferiore rispetto a quello che è previsto per la persona non microcitemica, che sono 2 donazioni per la donna all'anno, 4 donazioni per l'uomo. La microcitemia praticamente è una forma lieve di anemia legata a un difetto dell'emoglobina. Un difetto dell'emoglobina che di per sé però nel microcitemico non comporta nessun problema per la persona portatore di questo deficit genetico, però deve essere maggiormente tutelato, perché quando andiamo a sottrarre globuli rossi, ovviamente i globuli rossi del microcitemico sono di una misura leggermente inferiore e quindi rispetto alla media, e quindi devono supportare diciamo un maggior carico per trasportare l'ossigeno nel corpo del microcitemico stesso. Però il microcitemico può donare sangue e soprattutto il microcitemico può donare plasma, che è la parte liquida del sangue, e quindi non viene sottratto a lui la parte nobile dei globuli rossi che contengono l'emoglobina, che contengono il ferro, ma può contribuire ad avere questa disponibilità praticamente del plasma, che è indispensabile per produrre gli emoderivati che sono medicinali, come l'albumina, le immunoglobuline, i fattori della coagulazione, l'antitrombina, che sono altri farmaci salvavita che non possono essere ottenuti se non attraverso il sangue e il plasma donato. Abbiamo Livia che ci chiama da Milano, me la stanno segnalando dalla regia, ha chiamato l'800 24 00 24 perché vuole condividere con noi una cosa molto bella. Livia, buongiorno. Buongiorno, scusate, sono un po' emozionata. Mi scusi, pronto? Livia. Un po' emozionata, scusate. Volevo ringraziarvi tutti voi di Radio 24 e tutti i donatori di sangue. Sono una politrosfusa, ho delle patologie piuttosto gravi, importanti, e sono viva proprio per grazie a voi, grazie ai donatori. Grazie Livia. Grazie. E questa... grazie di questo bel dono, Livia. Aldo, vero? Ah, grazie per i vostri doni, cioè, proprio per voi stessi, perché voi donate voi stessi. Livia, un abbraccio. Io penso che Livia un libro a Livia, sì, lo diamo, sì, proprio con il cuore per questa bella testimonianza. Giovanna? L'età della donna, forse sceglierà lei, se vuole possiamo chiedere a lei, le faremo scegliere. Va bene Livia, va bene. Intanto grazie per averci chiamato, le auguriamo un buonissimo Natale, un abbraccio. Andiamo a Giulio che ci chiama da Brescia. Giulio, benvenuto. Buongiorno e complimenti per le trasmissioni che fate, le ascolto tutte le mattine. Grazie Giulio. Facendo la strada Manervio-Cremona che vado a fare il volontario in una casa di riposo. È bellissimo, straordinario, donare del tempo a delle persone sole. Guarda, io sto tornando a casa adesso. Sì? E c'era una persona che dice da 4 mesi non vedo nessuno. E io le stavo facendo una carezza, no? E dandogli da bere, e mi dice: mi sembra di sentire la mano di mio figlio. Un'altra che mi ha detto: da quando ti abbiamo conosciuto è entrato il sole nella nostra casa. Cioè, per dire che a volte sui ballatoi ci sono delle persone sole che nessuno si preoccupa di andarle a trovare. Giulio, lei ha parlato di tempo, ma ha parlato anche, sottolineato i gesti, la carezza. È un gesto che noi abbiamo dimenticato e che invece, secondo me, ancora più del bacio, racconta tutto l'amore, l'attenzione, la protezione. Sì, vero? La carezza è qualcosa, è molto la di mano, intimo. Sì, è molto intima, comunica la nostra energia, il nostro amore, comunica calore. C'è un libro che non ho qui oggi, ma che è di Umberto Veronesi, si chiama Una carezza per guarire. Quel titolo mi piace tantissimo perché la carezza guarisce, la carezza comunica amore. È bellissimo, a me piace molto toccare le persone per comunicare l'amore. E allora anche a Giulio, che è intervenuto e ci ha raccontato, ha portato la luce, ha dato proprio questo raggio, no? di luce anche nel nostro studio con il suo racconto, arriverà naturalmente a casa. Sì. Io distribuisco i libri che gentilmente Giovanna Gatti ci ha portato. Fai sono bene. Molto generosa con i libri degli altri. Giulio, un abbraccio, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon Natale. Arrivederci, buongiorno. A presto. Aldo, un abbraccio anche a te, grazie per essere stato con noi. Grazie mille. Tanti auguri. Auguri, e permettimi di fare tanti auguri e un ringraziamento speciale a tutti i volontari, in particolare a tutti i donatori di sangue, ma non solo, anche donatori di cellule staminali, di sangue cordonale. Tutti i donatori che consentono con il loro gesto veramente anonimo e volontario di poter fare qualche cosa di importante per gli altri. Grazie mille e un abbraccio di cuore. Grazie, grazie. Salutiamo Aldo Zino Caligaris. Abbiamo ancora qualche minuto di tempo prima di andare alle notizie del nostro GR per salutare Giovanni che ci chiama da Milano. Buongiorno Giovanni. Buongiorno signora. Buongiorno a lei. Buongiorno, ecco, io stavo seguendo la vostra trasmissione a proposito di doni, trasfusioni e volontari. Io sono trapiantato renale, doppio trapiantato renale, una volta nel 92 e l'ultima volta giugno 2014. Sì. Il dono ho ricevuto prima di tutto da mia mamma la prima volta e la seconda da mia moglie. E ovviamente ho avuto anche il piacere e la necessità di avvalermi della grande donazione di coloro i quali appunto sono donatori di sangue e dei volontari in ospedale. Quindi ecco una piccola testimonianza di ringraziamento sostanzialmente. Grazie. Per i doni di Natale. Grazie, siamo noi che ringraziamo lei per averci chiamato e per averci raccontato di questi doni così preziosi. Un saluto a lei e alla sua famiglia, un augurio, un libro che arriva da Giovanna. Il mio mondo è donna, perché ha avuto donazioni da donne, quindi Il mio mondo è donna di Umberto Veronesi con me. Volentieri, adesso andiamo a sentire il GR, restate con noi, continuate a chiamarci. Quest'anno voi passerete il Natale in famiglia, io lo passerò sul treno. Il mio treno va dal 24 al 25 dicembre, mi ascolterete partire da Parigi su Orient Express. La notte della vigilia probabilmente sarò dalle parti di Venezia, mentre il 25 a pranzo voi mangerete il cappone, io arriverò a Istanbul. Gianluca Nicoletti vi aspetta con il treno VA, speciale natalizio, sull'Orient Express. La vigilia alle ore 20 e il giorno di Natale alle ore 12, su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Ci sono quelli che danno poco del molto che hanno e lo danno per ottenere riconoscenza. Ma questo segreto di desiderio guasta i loro toni. E ci sono quelli che hanno poco e danno molto. Sono quelli che credono nella vita e nella generosità della vita. E il loro scrigno non è mai vuoto. Ci sono quelli che danno con gioia e quella gioia è la loro ricompensa. E ci sono quelli che danno con dolore e questo dolore è il loro battesimo. È bene dare quanto si è richiesti, ma è meglio dare quando, pur non essendo richiesti, si comprendono i bisogni degli altri. Tutto ciò che hai, un giorno o l'altro, sarà dato via. Perciò, da adesso, così che la stagione del dare sia la tua, non quella dei tuoi eredi. Khalil Gibran. Ci siamo regalati questa poesia di Gibran dedicata proprio al dono e sentendo questi versi viene subito automatico una riflessione da fare sul nostro rapporto col dono, sul dono che siamo capaci di dare, sul dono che facciamo e sul dono che abbiamo ricevuto, perché il dono crea relazioni ma racconta tanto di noi e smuove tante parti di noi, no? Perché il dono dovrebbe far sbocciare anche la riconoscenza, la gratitudine, non è sempre dovrebbe. Così. Il dono, secondo me il dono è un moto del cuore gratuito, è un dono, è amore. Non è scontato che generi gratitudine. Il problema della gratitudine è un po' delicato, perché prima abbiamo sentito persone che hanno detto grazie, grazie a chi mi ha aiutato, grazie a chi mi tiene in vita, grazie a chi mi dona il sangue o i tessuti. Grazie, non è detto che il grazie esista, anzi, la gratitudine a volte non solo non c'è, o apparentemente non c'è, ma si trasforma in rabbia. Ci sono persone che quando constatano di avere ricevuto si sentono in una posizione di maggiore difficoltà e si arrabbiano. E quindi è abbastanza frequente vedere persone che non solo non ringraziano, ma provocano dolore a chi ha donato. Bene, questo non è un motivo per smettere di donare, secondo me. Un messaggio di Clara al 349-238-6666 ci permette di introdurre anche la prossima ospite. Intanto ve lo leggo. Aggiunge una riflessione che definisce dissonante alle nostre. A volte il dono è sgradito perché è inaspettato e fa sentire in debito. Ecco. Oppure stupisce e innesca strani retropensieri che offuscano la buona fede e la letizia con cui si era compiuto il gesto. A me è successo e si diventa tristi. Allora, è indubbio che in un regalo, anche piccolo, anche comprato all'ultimo momento, mettiamo qualcosa di noi. Di questo parliamo con la dottoressa Monica Piccinni, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, certo, diciamo che da quello che si regala si possono capire alcuni aspetti della nostra personalità. Intanto, rifacendo un po' quello che diceva prima la signora, sicuramente vorrei fare una distinzione tra regalare e donare, mm-hmm. questi due termini che non sono assolutamente sinonimi. Perché regalare evoca l'idea della regalità, no? Dell'atto volto a riconoscere un merito o a manifestare riconoscenza verso qualcuno. Così per molti il regalo rappresenta una sorta di dazio, un po' da offrire, così. Sì, devo fare il regalo al mio capo perché non me lo aspettavo, ma proprio ieri è arrivato con un pacchettino. Ecco, è questa roba qua. Una sorta di costrizione, certo. No? Di doverizzazione. Invece donare è un'altra cosa, direi. Donare viene da dare nel senso più pieno e profondo. Significa offrire impegno, qualcosa che testimonia un amore, un sentimento più in generale, no? In modo però incondizionato e senza sentire di dovere nulla all'altro e senza nulla pretendere. Ecco, il dono, a differenza del regalo, è un omaggio ai sentimenti e non solo alla persona, direi. Se possiamo fare un identikit del donatore. Ci no? piace, che poi sentiamo anche alcuni donatori che si stanno mettendo in contatto con noi all'800 24 0024. Identikit del donatore. Allora, mi vengono in mente i donatori last minute, chiamiamoli così, quelli sì. che si limitano a fare magari il regalo scontato dell'ultimo momento solo perché, come dicevamo, costretti dalla circostanza, non so, il Natale per forza a tutti i costi, certo. E quindi io devo per forza trovare qualcosa, un oggettino. Oppure c'è l'originale, che invece cerca a tutti i costi qualcosa di diverso per fare bella figura, ma più che altro per essere riconosciuto e ricordato attraverso il suo oggetto. E infine, è un po' Vanesio, anche c'è un po', no? Ecco, sì, e il fai da te, che preferisce invece fare qualcosa con le proprie mani, magari con fatica, ma con gioia, proprio per manifestare il vero sentimento legato al dono. E poi c'è qui chi ha l'arte del grande riciclo, Giovanna. Questo c'erano delle percentuali. Grande classico, dimenticando il bigliettino dentro, magari il precedente bigliettino. Sì, ecco. Sì. Beh, c'è stile in questo. Bisogna saperlo fare ad arte. Andiamo a Giampaolo che ci chiama da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io posso dire che il regalo più bello è stato 3 anni fa, quando io e mia moglie abbiamo adottato nostra figlia, dopo un periodo un po' burrascoso, bambina italiana di 20 giorni. Diciamo. Credo che siamo stati molto fortunati, è il regalo più bello della mia storia. Ah, lo credo, Giampaolo. Come si chiama la sua bambina? Si chiama Margherita. Margherita, bellissimo nome. 20 giorni, eravamo in attesa per andare in Congo, ma in realtà poi qualcuno ci ha visto giù e ci ha chiamato. Ed è, ci ha visto, stato no? Molto bello. Ecco, è stato proprio un dono grande. Che bello. È stato un dono, sì. E poi questo ci ha fatto un po' capire che tutti siamo legati, questo per noi, almeno da un filo, da un destino. Sì. Quindi è stato bello, insomma. Grazie Giampaolo, auguri. Grazie. Auguri e baci a Margherita. Maurizio, grazie. Buongiorno da Milano, benvenuto. Sì. Buongiorno a tutti voi, un augurio di buona vigilia a tutti quanti. Oltre a essere donatore, volevo portare anche un ricordo agli operatori di 118. Io faccio il volontario come 118, sono pensionato e da 5 anni e ho trovato in questa attività un ottimo contributo da poter offrire a tutti quelli che hanno bisogno. Per cui non ci sono categorie, se uno ha bisogno, per cui non c'è una categoria che è privilegiata piuttosto altre. Ecco, volevo portare questa testimonianza perché in queste feste ci saranno sicuramente, oltre a me, mi sto preparando per fare il pomeriggio notte, quindi ci saranno sicuramente altri volontari che seguiranno questo percorso. È limitato perché 24 ore su 24 certo. Si deve portare un'ambulanza in casa di chi ha bisogno, ecco, quindi un pensiero a loro, ma fateci un regalo, lo chiedo naturalmente a lei, a Maurizio e anche a Giovanna Gatti. Allora, il 118 è un servizio prezioso che bisogna saper usare e utilizzare. Ci sono delle persone che attendono, sì. Invece comporre quel 118 potrebbe davvero salvare la vita. Diamo anche questa informazione di servizio. Beh, 118 è vitale. Io ho sorriso e ho chiesto di parlare perché il mio è un grazie veramente, perché da volontaria del 118 ho avuto un incidente anni fa in ambulanza e la mia vita è stata salvata dal 118 di Cassago Brianza e poi di Merate. La mia vita esiste oggi perché mi hanno salvato i colleghi volontari volontari mentre ero volontaria del 118, quindi per me questo è un grazie enorme di cuore, grazie. Maurizio, come volontario del 118 ci dia anche lei due indicazioni, componete il numero se? Non allora, esitate? Chiaramente bisogna essere cercare di mantenere la calma, è facile dirlo magari al telefono, però dobbiamo tenere conto che se si chiama il 118 al telefono, dall'altra parte c'è una persona che non può capire che cosa succede, quindi bisogna aiutare quella persona per aiutarci, per cui dire dove si è, che condizioni è la persona che si sta chiedendo aiuto, cercare di rispondere al meglio all'operatore, che l'operatore è una persona pazientissima, farà tutte le domande necessarie e mentre fa le domande farà arrivare il mezzo, per cui prima dare subito l'indirizzo e poi cominciare a dare le informazioni necessarie. Ecco, questo aiuta anche gli operatori. E poi, se posso dire una cosa, se si vuole aiutare chi sta male in attesa del 118, chiedere come fare. Chiedere mentre si è al telefono, perché a volte, soprattutto negli incidenti stradali, si affollano le persone che cominciano a fare. Non sempre bisogna fare, a volte bisogna stare fermi perché si rischia di aggravare la condizione del paziente. Abbiamo approfittato dell'intervento di Maurizio per dare, come sempre, anche un'indicazione di servizio. Maurizio, tanti auguri. Auguroni a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio. Allora, abbraccio. Dottoressa Piccini, c'è chi prova però più piacere a fare regali che a riceverli. Ah sì, certo, è vero questo, si dice che donare sia addirittura meglio che ricevere, donare infatti implica un, come dire, offrire un dono, ma non solo all'altro, anche a se stessi, crea una specie di dipendenza però, no? Permette di consolidare un legame, di rafforzare il nostro senso di competenza, nel senso che abbiamo fatto una cosa buona, una cosa bella, addirittura la nostra autostima e anche la fiducia in noi stessi. Guarda, per me il dono è una forma di comunicazione carica di un forte valore emotivo. Certo che, Nicoletta, d'altro canto, può essere molto difficile invece ricevere un dono, un po' quello che dicevamo prima, no? Che ho sentito, perché colui che riceve si trova un po' in una condizione di presunta sottomissione, no? Un po' di dipendenza, nel senso che deve mostrare o gratitudine o in qualche modo riconoscenza, magari anche senza aspettarselo. E essere dipendenti, insomma, non è tanto bello, implica anche un senso di vulnerabilità che molti non tollerano e quindi fanno un po' fatica, ecco. Però abbandonatevi, direi. Allora vi voglio, prima di salutare Monica Piccini, a cui naturalmente facciamo tutti i nostri più cari e sentiti auguri, anche da parte mia, voglio leggervi un messaggio di una prof celiaca, e il suo dono inaspettato è stato un panettone senza glutine da parte dei suoi alunni. Questa è la buona scuola, questo è un bellissimo messaggio. Grazie dottoressa Piccini, grazie a voi, buon Natale, buon dono a tutti. Andiamo a Rosanna che ci chiama da Macerata. Buongiorno, un'altra amica che ci è venuta a trovare. È pronto, buongiorno. Buongiorno, auguri anche auguri da parte di Debora. Voi state, grazie mille. E niente, io volevo ricollegarmi prima col discorso sulla carezza, no? Sì. Che secondo me è un gesto molto molto importante, perché oltre che donare amore, affetto, è anche un maniera anche per rilassare una persona, perché io ho provato quando magari ci sono delle persone un po' nervose, così ti fai una carezza e già si automaticamente. Quanto è vero, Rosanna, sa che lei invita a nozze Giovanna Gatti, che come medico sa quanto il potere di una carezza, lo sappiamo tutti, non è necessario. Ecco. Il potere della carezza che secondo me è superiore, come diceva lei, al bacio, al saluto, perché la carezza c'è proprio questo contatto fisico che appunto stavo dicendo che serve anche per rilassare una persona, cioè tu in quel momento di collera magari senti questa persona che è nervosa, così gli fai una carezza, già sente questo contatto che si rilassa. cosa. Vedi? Per lui è anche una maniera per calmare anche le persone. Cioè, per me le carezze sono fondamentali. Dobbiamo cercare di far ritornare in auge la carezza, Giovanna. Infatti, è vero, fate. Che purtroppo oggigiorno invece le carezze vedo che sono proprio diminuite tantissimo. Allora, una carezza, anzi due carezze, Rosanna, che ci ha chiamato da Macerata, e probabilmente un libro che manderà Giovanna. Già dedicato in realtà. A proposito di carezze e di imposizione delle mani, che non è altro che accarezzare, Reiki e tutte le tecniche che comunicano energia da una persona all'altra danno non solo pace ma anche uno stato di benessere, uno stato di salute. La carezza è fondamentale, è vero, sono medico di medicina occidentale ma anche master Reiki, e Reiki è qualcosa che possiamo dare agli altri, a noi stessi, e non è altro, un po' banalizzato ma vero, che usare le nostre mani per portare pace, equilibrio e benessere a noi stessi e agli altri. I'll get that toy. I promise. It's Christmas Eve, and Dad is in a bind. It seems the hottest toy. Troubleman. Rather hard to find. Get along. Just when things are done, a problem did arise. Another dad is on his tail with sights on the same prize. Policeman here, mother's there, kids out. È il trailer di un film che in Italia conosciamo con il titolo di Una promessa e una promessa, e parla proprio di regali di Natale. E a proposito di film di Natale, noi diamo il buongiorno. Io non ho potuto darle una carezza, ma perché mi sono infilata quatta quatta in studio. Non hai fatto neanche un rumorino. No, ormai sono capace. La Pantera Rosa, altro la che... Pantera Rosa con tanti ricci però. Sì, oggi perché ho portato belli, i miei capelli naturali, bellissimi. Buongiorno a tutti. Che io e Giovanna Gatti invidiamo molto, sì. Allora l'avete sicuramente riconosciuto, una bellissima voce inconfondibile. Abbiamo il piacere, Marta Cagnola ci fa il regalo di essere qui con noi. Allora, io mi sono fatta tutto il viaggio in macchina da casa mia, abito un po' fuori Milano, coi lacrimoni. Ma che bella questa puntata! Sì, perché bisogna. Mi sono commossa. Si può dire, tutto. Ma a Natale tutti no, ci sentiamo no, buoni. No. Facciamo i buoni una volta. Secondo me, poi qualcosa si smuove, no? Come. Non lo so, speriamo. Intanto abbiamo sentito questo film che è il film al quale io penso ogni volta che vado a comprare regali. Mm. Perché, non so se ve lo ricordate, Arnold Schwarzenegger, sempre preso dal lavoro, ha un bimbo che desidera un regalo di Natale molto particolare, il Turbo Man, che è un giocattolo. E succede tutto perché lui Babbo Natale non lo trovava o lo trovava? No, il problema è che ragazzi qua se tutti vogliono lo stesso povero Babbo Natale, cioè non lui. È che se le fabbriche devono fabbricarlo, sì. Come facciamo? Anche Babbo bisogna farla presto la lettera. Che se no bisogna muoversi per tempo. Babbo dice: e beh, allora? E qua sono finite le scorte. E allora il papà comincia a cercare dappertutto questo Turbo Man e non lo e trova. Quindi è un po' la colonna sonora dei tuoi acquisti natalizi. Sì, sì, anche perché anch'io mi sveglio all'ultimo momento con le mie letterine e non ce la faccio più. Mi sono cercata un po' di film con i regali di Natale. Questo allora, ci piace molto perché poi metteremo naturalmente i mettiamo link che link. Tu ci hai segnalato e di cui ci ho trovato una lista di 25 addirittura film su slashfilm.com, però io ho guardato soprattutto i primi e il primo mi piace moltissimo, anzi magari me lo riguarderò durante queste vacanze di Natale, perché è Charlie e la fabbrica di cioccolato, però quello del 71, quello del 71. Vedi, lei è proprio una super raffinata, è un po' come noi degustatori, sì, è il nebbiolo ma l'anno. No, ma anche perché secondo me questa lista è stata fatta da qualcuno della mia generazione, da qualche bambino tra gli anni 70 e gli anni 80, perché sono i film della nostra infanzia. Allora, Charlie e la fabbrica di cioccolato, perché è il regalo più bello in assoluto. Chi di noi, di bambino di qualsiasi età, non vorrebbe essere catapultato nella fabbrica di cioccolato? Niente di meglio. La seconda è La spada di luce di Star Wars 1977. Qui non possiamo dire chi l'ha regalata a chi, perché sennò qualcuno si è perso metà della saga di Star Wars e dopo ci scrivono, no? Avete svelato chi era? No. Il terzo, beh, è un film drammatico in realtà, A Christmas Story dell'83, io neanche me lo ricordavo, c'era un bambino che voleva un regalo, ma voleva un fucile, non è un gran non regalo è, per un bambino. Non è una buona idea. Il film ce lo ricorda che non è una bellissima idea. Al quarto posto però io adoro i Gremlins. Ve le ricordate? Eh, certo che il regalo di Natale dei Gremlins, bellissimo regalo di Natale, con qualche accortezza. Se qualche bambino non ha ancora visto quel film, ti fa un po' paura però. Io da bambina avevo paura di avere i Gremlin sotto il letto. Ecco, però proprio a Natale si vedono anche dei film tutti in famiglia, tutti insieme appassionatamente, che c'è più gusto, perché anche sì. Se poi la nonna dice, perché non sente tanto, dice come allora, o commenta ad alta voce, però dai, poi si è lì, si chiacchiera. Non ho capito cosa è successo, nonna, allora bisogna spiegare tutto. Bello. Ma ci piace anche così. Bello, bello, bellissimo. Infatti tornano i film in televisione, ne abbiamo parlato sabato scorso in diretta al Sabato del Villaggio, perché finalmente tornano almeno durante le vacanze di Natale i film in TV, che di solito non si guardano mai. Al quinto posto c'è Ritorno al Futuro parte terza, perché Doc Brown, il dottore, regala a Marty una foto di 100 anni prima, e questo è un bel regalo. Poi ho trovato un'altra lista che adesso vi twittiamo perché è molto carina, sono gli episodi più belli di Natale delle serie TV. Adesso poi con Netflix li possiamo recuperare tutti. Vedi che quante ne sa. Lei dovrebbe regalarci e donarci un po' della sua energia e soprattutto di questa sua curiosità. Che testa avrà questa donna? Vedi come si aggancia. Perché ha i capelli. Perché sono i ricci. Scoppia tutto. Allora, io ho scelto i più belli. Gossip Girl, Parks and Recreation, 30 Rock, Friends, favoloso, e Mad Men. Poi vi dico anche quali puntate sono. Ma la cosa più bella è ricordarsi di quando durante l'infanzia ci mandavano in onda le serie TV a caso e vedevamo sempre le puntate di Natale e del giorno del ringraziamento ad agosto. E diciamo, ma perché? Perché? Ma perché è Natale? E noi le vedevamo ad agosto. Erano tutti a casa, erano tutti mischiati. Altri due regali che ci hanno fatto, uno ce li ha fatto il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Lui in persona, lui e Michelle. E vabbè, hanno fatto una coppia fantastica. Ce l'hanno fatto e generosa. Sì, su Spotify, il servizio di musica in streaming, ci hanno mandato la loro lista di musica per Natale. Quindi se vogliamo sentirci alla Casa Bianca, io domani lo farai nei miei appartamenti che effettivamente sono arredati in bianco. Eh beh, l'importante è avere una cosa in comune, bianca e bianca. Manca Obama però. Beh, insomma, vabbè. E mettiamo la sua musica. La foto. Ha mandato la sua playlist, anche se il regalo più bello secondo me in fatto di spettacoli, di cose belle di questi giorni, ce l'hanno fatto i Beatles. Cosa ci hanno fatto? Allora, Paul e Ringo, che è nato il 17 giugno come me, tra l'altro, e questo vuol non dire a caso. I belloni. Paul e Ringo e le vedove di John Lennon e di George Harrison hanno deciso dopo tantissimi anni di rendere disponibili gli album dei Beatles anche nelle piattaforme di streaming online, Spotify appunto, ma anche Deezer, Apple Music, quelle insomma che ci permettono di ascoltare la musica collegandosi a internet o pagando qualcosa al mese o anche free con un po' di pubblicità. Non c'erano i Beatles e quindi io da stamattina mi sono svegliata ed è tutto il giorno che, a parte la parentesi in macchina ascoltando Cuore con Denari, la con le lacrime, la carezza, la bimba, no? È bellissimo. Mi sono ascoltata i Beatles da stamattina così compulsivamente. Ed è quello che faremo noi subito dopo la chiusura del programma. Comunque l'ultima cosa che volevo dire è che anch'io sono una di quelle che vogliono stupire con i regali, però non è sbagliato. No, però sai, perché vogliamo lasciare un segno, vogliamo essere ricordati. Riesci a stupire tutte o hai dei regali particolari col botto e altri serie A e serie B? Allora, la mia tecnica è sempre ricordarmi quello che le persone dicono magari durante l'anno. Ah, bella questa cosa. E io o me la ricordo o me la segno, perché poi magari arriva il momento buono in cui proprio quella cosa la compro. Oppure cerco di concentrarmi sulle passioni e lì vado proprio a cercare il regalo col botto. Lì ci piace. Cercare regalo. Io abbiamo più volte parlato del mio viaggio in Polinesia, però non è mai arrivato un biglietto e Nico, io guarderò le foto. Un poster. Esatto, non è il valore economico. Se io ti portassi ad esempio una conchiglia, un fiore di tiare, sarebbe, cioè il significato è uguale. Vabbè, accontentiamoci. Un barattolo di sabbia. Barattolo di sabbia è uguale. È uguale. Sì. Vabbè, e intanto io sogno. Me la sono cavata così. Grazie Marta. Noi adesso facciamo una pausa. Ci hai traghettato alla pausa. Poi andiamo a sentire il nostro dottor Aria, perché fino al 31 stiamo monitorando un po' la qualità Accidenti. Dell'aria dello stivale. Abbiamo iniziato quasi in tempi non sospetti e il dottor Mocci ci passa tutto da città in città, ci dà il colore, e quindi noi ci salutiamo subito dopo. Grazie, ci hai fatto io un regalo a essere gli qui. Gli auguri solo agli ascoltatori di Cuore Denari, perché poi tanto io domani mattina sono qua, faccio tutti nuovo. I giornali radio, poi alle 11 uno speciale con Davide Paolini, sono qua tutti i giorni, dove vado? Io e noi siamo contenti. È un bel regalo, grazie Marta Cagnola. A pausa. Cuore e denari. Siamo tornati insieme in questa puntata tra un po' di commozione, qualche lacrimuccia, un battito, no? Di un po' d'ali del nostro cuore che sembra mettere un po' le a luce, sì. I vostri messaggi che sono veramente carinissimi. Ringrazio tutti quanti ci stanno scrivendo per gli auguri di Natale al 349-238-6666, regalandoci veramente delle parole meravigliose anche via WhatsApp. E ringrazio naturalmente anche da parte di Deborah, che forse ci starà ascoltando, ma che tornerà con me il 30 di dicembre. Intanto noi poi... Giovanna, abbiamo ancora dei libri da distribuire. Sì, ancora libri. 800-24-0024. Adesso anche tu hai la playlist di Obama. Abbiamo vedo l'ora. Ecco, abbiamo fatto il profilo del donatore. Abbiamo parlato di gratitudine e di grazia. Parleremo anche di regali, di doni che si possono donare anche dei soldi, dei denari. Quindi ecco, questo può essere importante. Molto utile e molto importante. Ma prima ci facciamo come sempre un bel respiro, è arrivato il nostro appuntamento. Che aria respiriamo ogni giorno? Quali sono le sostanze che si possono definire inquinanti? Per quanto tempo e in quali concentrazioni cominciano ad avere un effetto negativo per la salute umana o per l'ecosistema? Queste sono le domande che ci poniamo ogni giorno qui a Cuore Denari con la nostra nuova rubrica L'aria che respiriamo. E in linea con noi abbiamo il nostro dottor Mauro Mocci, medico ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei li ha fatti tutti i regali di Natale? Io non riesco a farli perché ho troppi impegni, quindi preferisco riceverli. Ecco, vedi, questo è un altro profilo che non avevamo contemplato. Speriamo che il clima ci faccia un regalo e che ci porti via un po' di smog. Lei come Purtroppo questi giorni siamo veramente messi male, siamo messi malissimo in tutta Italia. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo a Trento e diamo un giallo, perché lì oltre le polveri anche gli ossidi di azoto stanno un pochettino aumentando. Poi andiamo su Genova e Genova ha un giallo che quasi tende al rosso comunque, sia per le polveri, soprattutto per le polveri. Poi scendiamo a sud, andiamo a Caserta, sì? E Caserta invece è un rosso netto. Bello vivace. Quindi la situazione, nonostante città che uno può pensare che siano possono essere virtuose, tipo Taranto, Genova, che sono sul mare o in montagna, invece la qualità dell'aria non è buona come dovrebbe essere. E sì. Maglia Nera, purtroppo, dobbiamo ridarla ancora a Frosinone. E poi faremo l'ultimo giorno, se sarà possibile, faremo una maglia nera dell'anno, una maglia rosa per l'anno, e una maglia rosa invece la diamo a Verbania perché hanno preso delle iniziative comuni in tempi non sospetti, come si diceva prima, perché le iniziative vanno prese non nell'emergenza, ma bisogna farlo prima, certo. Avete sentito in questi giorni Milano sta prendendo delle iniziative, benissimo il ticket antismog, far pagare il ticket di un giorno, cioè 1,50 euro, e dare la possibilità di viaggiare tutto il giorno. Secondo me è un'iniziativa ottima, come quella di far viaggiare gratuitamente chi accompagna i figli a scuola. Ottima come iniziativa. Il fermo delle macchine purtroppo non risolve. Fermare le macchine dalle 10 alle 16, evitiamo i picchi di inquinamento che sono sì dannosi, ma non evitiamo la media, perché se le auto vengono utilizzate nelle ore in cui si può viaggiare, ovviamente la quantità di polveri e di inquinamento rimane, perché quindi mi sta bocciando l'iniziativa milanese. va bene per quanto riguarda i ticket, ma fermare il traffico in quelle ore dalle 10 alle 16, il 28, il 29, il 30, non risolve il problema, perché lei viaggerà prima delle 10 e dopo le 16, quindi avremo dei picchi di inquinamento nelle ore precedenti, le 10 e dopo le 16, in quella fascia ci sarà meno inquinamento, ma la media, noi i dati li facciamo sulla media, il nostro organismo si intossica anche con la media che certo. respira durante il giorno, quindi sono delle iniziative che sì, servono purtroppo a poco, quindi andrebbero prese delle iniziative un po' più concrete. Ecco, questa della gratuità o della facilità di utilizzo dei mezzi pubblici è invece quello che bisogna fare. Vedi, gratuità proprio come un dono che fa esatto, bene all'ambiente. Esatto, esatto. In questi giorni cercare di dare qualche possibilità di utilizzare i mezzi pubblici e casomai potrebbe anche essere da incentivo a chi non l'ha mai preso, perché ci sono persone che non hanno mai preso mezzi pubblici e potrebbero cominciare ad avvicinarsi all'utilizzo del mezzo pubblico, magari lo troverebbero anche più comodo. Un'altra parola breve per quanto riguarda l'ordinanza che è stata fatta in un paesino, in San Vitaliano, vicino Napoli, dove è stato fatta un'ordinanza per ridurre l'inquinamento vietando l'uso di forni per fare la pizza. Ora questa la trovo un'iniziativa eccezionale, esatto. Ma come si può? L'ordinanza dice che devono adeguarsi a norme di abbattimento per i fumi. Ora io capisco che insomma anche la pizza ci tolgono, dai, però, proprio a Natale. Non sono queste le iniziative che possono risolvere il problema. Forse magari ridurre i fuochi d'artificio sì. Quelli perché sì, quelli sì. Quelli sì, quelli ci piacerebbe. Quello si potrebbe fare per vari motivi. Dottor Mocci, danni all'ambiente e alla salute. Quindi no ai fuochi d'artificio, sì alle pizze. Chiudiamo sì. così questa nostra rubrica. Tra l'altro, dottor Mocci, lei sa che i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo per commentare un po' anche le informazioni che lei ci riporta ogni giorno. Dice, e più di uno ha scritto, beh certo che il vostro dottor Mocci non le manda a dire, sottolineando appunto che i suoi commenti sono molto, molto preziosi. Quindi vede, ha ricevuto anche lei un regalo, gli apprezzamenti grazie. Dei nostri ascoltatori. I regali ne faccio tutti i giorni, con la mia attività io cerco di regalarmi quotidianamente, faccio il medico e cerco di farlo nel modo migliore possibile. Vado anche fuori, faccio le missioni, a gennaio andrò in India per un po' di giorni, sono stato a Madagascar ad aiutare ad operare, quindi io cerco di regalarmi quotidianamente. Grazie dottor Mocci, noi ci sentiamo lunedì 28, intanto le auguro un buon Natale. Tanti auguri anche a voi. Abbiamo tanti ascoltatori e molti che in linea con noi, abbiamo Danilo da Pesaro, Fulvio da Milano, Rosanna da Macerata. Voglio leggere anche un messaggio che è arrivato anche per te Giovanna. Ho provato a chiamare dalla Germania ma dal numero verde non si può, mando un sms, auguri a Nicoletta Carbone, Giovanna Gatti e Deborah Rosciani da Paola Concia che Paola. Ci segue anche dalla Germania. Grazie, buon Natale Paola. Allora andiamo, mi sono persa la pagina. Danilo, buongiorno da Pesaro. Buongiorno. Buongiorno Danilo, grazie per essere con noi. Grazie a voi per la trasmissione che fate. E sono in fila al supermercato adesso. Io l'ho chiamata perché stiamo parlando di regali così, no? Noi siamo investiti tutti i giorni dalla televisione, dalla pubblicità sulle olive, no? Sì. E allora io e mia moglie vorremmo fare queste donazioni così, ma quello che ci rende dubbiosi è il fatto della serietà di queste onlus e sapere, perché non c'è più fiducia, quanti di questi soldi vanno veramente alle persone e quanti all'organizzazione così. Mi scuso di aver fatto gli auguri di buon Natale. No, allora, senta, lei, la sua domanda, come si dice, cade a fagiolo, mi fa un grande regalo perché è il modo migliore per salutare il nostro prossimo esperto, Giampaolo Concari, commercialista ed esperto di questioni fiscali del mondo no profit e animatore del sito www.quinonprofit.it. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buon Natale a voi. Buon Natale, pronto? Vede, la mettiamo subito al lavoro, altro che regalo, qua li facciamo subito lavorare per rispondere al nostro ascoltatore che vorrebbe destinare dei soldi per una onlus, ma dice, ma poi dove vanno a finire, come si fa, come posso essere sicura della serietà? Allora, per quanto riguarda la serietà delle organizzazioni che ricevono donazioni, questo sta prima di tutto nella capacità di questa organizzazione, di queste organizzazioni, di comunicare i risultati ottenuti con le donazioni ricevute. Per esempio, molte organizzazioni fanno di questa loro trasparenza un loro cavallo di battaglia per appunto attirare nuovi donatori e continuare a lavorare nel settore che hanno scelto, sì, appunto, in cui operare, ecco. E quindi si tratta appunto di trasparenza. Questa trasparenza la si può vedere consultando i loro siti istituzionali. E poi diamo proprio delle indicazioni al nostro Danilo. Che cosa farebbe lei al posto di Danilo? Cioè, per muovere proprio i primi passi, allora, in questo campo? Intanto io sceglierei un'organizzazione, o comunque nell'ambito delle organizzazioni che lavorano in una causa, per una causa per la quale io mi sento più vicino. Quindi sì, c'è una sorta di condivisione, no, dell'idea proposta da queste organizzazioni. Sì. Allora, non so, se a me piace, se io penso che scavare pozzi in Africa vada bene, allora cercherò nel sito del Ministero degli Affari Esteri quali sono le organizzazioni che scavano pozzi in Africa, per dire. Certo. O dove servono, ecco. Questo era un esempio molto così banale. No, per dire individuare ecco, chi si vuole aiutare. Perché, magari ecco, ci sono organizzazioni che lavorano, che operano proprio sotto casa e che è giusto sostenere, perché per esempio, non so, chi gestisce i trasporti di emergenza urgenza nel proprio paese. Non so. Quindi queste verifiche si possono fare. Chiedevo a Giovanna, adesso c'è stato Telethon, sì, e comunque investire, no? Sì, i soldi anche nella ricerca, con queste, sì, raccolte fondi sono molto importanti. Sono fondamentali. Sì. Ecco, e quindi anche questo è un modo di donare al, sì, di là di tutto. Sì. Io di solito suggerisco, quando si dona a una di queste associazioni, onlus, fondazione, di valutare prima la rapidità di risposta. Provate a contattare questi enti, vedete in quanto tempo e come vi rispondono e con quanta chiarezza, e decidete come e quando donare. È anche importante vedere se ringraziano e quando. Mi sembra un ottimo suggerimento. Le piace? Allora, ci sono anche degli aspetti fiscali, no? Ci racconta quelli più importanti delle donazioni che facciamo? Certamente. Dunque, per quanto riguarda le onlus, perché poi effettivamente andare a leggere nelle pieghe del testo unico delle imposte sui redditi, sono diverse le organizzazioni, gli enti beneficiari di erogazioni liberali, appunto, a fronte delle quali il donatore ha delle agevolazioni fiscali. Perderemo una mattina e no, ma abbiamo più, anche un po' poco tempo, per cui se prima, esatto, delle, quindi, informazioni sul, diciamo, traffico, lei mi dà proprio due indicazioni. Allora, innanzitutto per le onlus, che sono un bacino, diciamo così, di utenza maggiore, abbiamo detraibilità fiscale, quindi una detrazione d'imposta riconosciuta per un ammontare del 26% dell'onere sostenuto, oppure deducibilità fiscale piena dell'onere fino comunque al 10% del reddito imponibile. Cosa significa? Che se io ho una dichiarazione dei redditi dove la mia aliquota IRPEF è inferiore al 26%, quindi ho un reddito medio-basso, mi conviene scegliere il regime della detraibilità fiscale, quindi del riconoscimento della detrazione d'imposta, perché ho un vantaggio fiscale maggiore, naturalmente. Ci fermiamo per sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. Cuore e denari. E invece Cuore Denari è tornato veloce veloce in questa puntata tutta dedicata al dono. Siamo partiti dalla donazione di sangue, di parti di sé, di tempo. Ci stanno scrivendo e ancora raccontando tanti volontari guidati da Giovanna Gatti, medico scrittore, che ci ha aiutato in queste riflessioni a tirare un po' fuori, no, questa nostra parte. Parliamo, si possono donare anche dei denari, e ne stiamo parlando con il dottor Giampaolo Concari, commercialista esperto di questioni fiscali del mondo no profit e animatore del sito quinonprofit.it. Dottore, stanno arrivando molti messaggi al 349-238-6666, molto specifici, anche alcuni riguardano il 5 per 1000. Allora, sicuramente noi ci risentiamo con Deborah in primavera, quando sarà tempo del 5 per 1000 per la dichiarazione, ma ci vuole raccontare rapidamente di che cosa si tratta, così abbiamo, come si dice, tempo per pensarci. Perfetto. Il 5 per 1000 è sostanzialmente una donazione a costo zero per il soggetto che esprime la propria scelta nella propria dichiarazione dei redditi. È molto semplice, basta andare a mettere una crocetta, un codice fiscale, una firma, oppure basta mettere una crocetta e una firma. Per andare a fare una donazione attraverso la propria IRPEF, la propria imposta sui redditi, persone fisiche e non società, mi raccomando, appunto a favore o di un ente specifico oppure di una categoria di enti tra quelle ammesse alla fruizione del 5 per 1000. In sostanza poi lo Stato è mandatario, sì, diciamo, necessario per operare questa devoluzione. Quindi, in sostanza, posto che il contribuente debba pagare 1000 euro di tasse, il 5 per 1000 di queste, quindi 5 euro di questi 1000 andranno a favore dell'organizzazione che lui ha scelto. Grazie, auguri, noi ci sentiamo in primavera, ma molto probabilmente anche prima. Buon anno anche. Buon anno e buona giornata. Tutti. Grazie, molto gentile davvero, e ricambio di cuore appunto, e senza denari ma con tanto cuore. Con tanto cuore e poco denari, va bene, che servono però anche quelli, perché non fanno la felicità ma, come si dice, aiutano. Grazie. Aiutano. Giovanna, poi noi abbiamo il nostro appuntamento con la favola, che quest'anno bello, che oggi si conclude con il gran finale di Andrea Vitali, che tu ben conosci. A proposito di favola, anche questo può essere un regalo. Nel raccontare le favole, nello scriverle. Sì, sì. Scrivere, raccontare, inventare, creare. Quello è un dono per noi mentre lo facciamo, perché mettiamo in moto tutte le energie migliori che abbiamo, ma è un dono anche per gli altri, ricevere il racconto di una favola, ricevere il racconto di una vita. A volte cerchiamo la verità nel racconto degli altri, ma non capiamo che la bellezza sta nel fatto stesso di raccontare qualsiasi cosa. Andrea Vitali è un grandissimo raccontatore, io lo adoro, anche se fa sempre commenti se sono truccata oppure no, fa dei commenti a volte un po' così, però lo adoro perché è un grandissimo raccontatore, e noi a volte sottovalutiamo il grande regalo di ricevere la gioia di un volo. Raccontare, favolare noi mentre lo facciamo e favolare chi ascolta. Abbiamo bisogno di altre dimensioni, altre realtà, perché quella non è fantasia, è un'altra realtà. Quindi raccontare è un dono. Raccontare, si può raccontare una favola, si può raccontare una cosa che ti è capitato, qualsiasi qualche cosa, un'emozione, tirarla fuori. Si può anche provare a scriverle. Noi abbiamo fatto questo grande esercizio di scrittura collettiva, non è il primo che facciamo con Andrea Vitali, abbiamo proprio costruito la favola dentro la favola. Però visto che oggi è il 24 dicembre, dobbiamo anche regalarvi l'ultimo appuntamento con un regalo molto speciale che ci hanno fatto degli amici carissimi, Andrea Vitali e Salute Umana, ogni giorno infatti da questo dicembre. Come abbiamo usato proprio lo schema del calendario dell'avvento, i nostri amici ci hanno raccontato un pezzettino della favola di Natale di Andrea Vitali, ogni giorno una piccola pillola, un incipit che i nostri ascoltatori hanno poi da qui hanno preso spunto per costruire una favola nella favola. Però adesso è il momento dell'ultima puntata, dell'ultimo frammento della nostra favola. Sentiamola. Thank you. Son 21 i passi che fin qui mi hanno portato, 22 le suole che per farli ho consumato, 23 le ore col cappello alla sghimbescia, 24 i giorni che ho contato alla rovescia. Il postino Mercurio dovete fare un piccolo straordinario quell'anno. La mattina del 24 dicembre, infatti, quando tutti lo pensavano già in qualche lontanissima costellazione a godersi la meritata vacanza, si presentò ancora al Polo Nord per una consegna. Pensa un po', disse alla Rena Rudolf, una sola lettera, una sola, era vero, ma urgente e personale, personalissima, da consegnare solo a Babbo Natale in persona. Era l'ultima lettera che il babbo aspettava prima di cominciare a caricare la slitta. La bambina, prima di diventare grande, aveva seguito alla lettera le sue istruzioni, esprimendo tutti i suoi desideri. Però lo avvisava che sia la mamma che il papà, cui aveva raccontato l'avventura di quella notte, l'avevano presa per una sua fantasia. Babbo Natale sorrise tra sé. Decise che sarebbe entrato in quella casa, in quel piccolo camino, proprio alla mezzanotte, e avrebbe lasciato ciò che la bambina aveva chiesto: un regalo al giorno. Un regalo per ogni giorno dell'anno, 365 regali, per non dimenticarsi mai di Babbo Natale e delle sue renne. La neve fiocca, l'orologio scocca, la mezzanotte, buon Natale a voi, rotola in bocca, una fila strocca, una conta che si canta, cantala con noi. Eccoci qui, allora, è un bel regalo, sì. L'avete fatto voi a noi scrivendo con noi la favola, una favola dentro la favola, e anche Andrea Vitali, che ringraziamo, insieme ai Sulutumana. Naturalmente la favola completa la trovate a partire da domani sulla nostra pagina, trovate anche il podio di ieri. Io vorrei chiudere proprio con una battuta con Antonio da Ravenna. Buongiorno Antonio. Salve, buongiorno a tutti, e vi ringrazio della stupenda trasmissione. Grazie Antonio, chiudiamo con lei in bellezza questa puntata per farci gli auguri. Sì, io sono papà prima e nonno dopo. Vi volevo, sono molto molto emozionato. Sì, Antonio, sì, l'emozione è proprio un po' la voce anch'io del cuore. Emozionata. Siamo tutti emozionati, Antonio. Allora, e però il tempo inesorabilmente scappa. Antonio, vuole farci gli auguri? Sì, vi voglio fare degli stupendi auguri di cuore e una preghiera da nonno. Sì. Far capire attraverso voi, attraverso le scuole, attraverso la famiglia, il vero valore del dono. Il vero valore del dono. Grazie Antonio. Grazie. Lei ci ha regalato anche questa commozione, segno che questo suo desiderio partiva proprio dal cuore. Io vi saluto regalandovi una carezza. Abbiamo parlato di carezze, un modo per sentirci vicino e per, no, per accorciare, sì, le distanze. Giovanna? Grazie, buon Natale, una carezza a Nicoletta, una carezza a Debora, una carezza a tutti gli ascoltatori e una carezza a Paola Concia, che ci ha chiamato dalla Germania. Grazie a Pietro alla corte, in regia alla parte tecnica, anche questo è un bel dono perché non è quasi mai con noi, e naturalmente a Marco Lombardo e a Laura Vanossi in redazione. Noi ci sentiamo anche domani. Buon Natale. Ciao.